I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Dopo Volkswagen, il Dieselgate minaccia di colpire anche FCA. L'EPA, l'autorità americana che aveva messo sotto inchiesta la casa tedesca, ha accusato il gruppo guidato da Sergio Marchionne di aver violato la normativa su emissioni diesel. Il titolo FCA, dopo essere entrato più volte in asta di volatilità, ha chiuso con un tonfo del 16%, nonostante dal quartier generale del gruppo sia stato ribadito che gli standard sono stati rispettati. L'EPA, che è la stessa authority che nel settembre 2015 fece esplodere lo scandalo Dieselgate per la casa automobilistica tedesca, ha accusato FCA di avere montato sui motori diesel di 104.000 veicoli un software che ha consentito emissioni superiori a quanto previsto dalla legge. La tesi delle autorità USA è che il gruppo guidato da Marchionne avrebbe installato senza dirlo un cosiddetto engine management software sui modelli Jeep Grand Cherokee, Dodge Ram prodotti nel 2014, 2015 e 2016. La tesi dell'azienda invece è che si tratta di un congegno perfettamente legale e del tutto in linea con le regole europee, ma è evidente che sarà proprio questo il cuore della possibile controversia legale. FCA rischia ora una multa fino a 4,6 miliardi perché si tratta di una sanzione pari a oltre 44 mila dollari per ogni veicolo incriminato. Marchionne è fiducioso e seccato per le modalità con cui l'autority in realtà ha fatto uscire la notizia. Tuttavia si è detto pronto a collaborare al massimo con la nuova amministrazione Trump. Una battuta direi è stata significativa, nessuno in FCA è così stupido da installare software illegali. In ogni caso, ed è stata un'altra delle battute significative pronunciate ieri da Marchionne, l'azienda sarà perfettamente in grado di assorbire anche l'eventuale multa da 4,6 miliardi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Oggi, venerdì 13, i mercati attendono un segnale importante, la valutazione di rating dell'agenzia canadese DBRS che arriverà tra un paio d'ore a mercati chiusi. Delle quattro agenzie che danno in genere le pagelle ai paesi e stabiliscono quindi quale sia il rischio sovrano, la DBRS è l'unica che ancora aveva mantenuto un giudizio A, vale a dire più positivo, sul nostro paese. Per le altre agenzie, Fitch, Standard & Poor's e Moody's, l'Italia invece è un paese da giudizio B. Se oggi anche DBRS abbasserà la sua valutazione, l'impatto per chi deve acquisire liquidità presso la BCE, ad esempio, e anche sui mercati, non sarà piccolo. Chi oggi chiede denaro alla Banca Centrale Europea e presenta titoli pubblici come garanzia o, come si dice tecnicamente, come collaterale, e ha un rating A, si vede trattenere lo 0,5% del capitale ad esempio di un bot, ma se ha rating B la trattenuta diventa del 6% e in caso di un BTP invece si passa appunto dal 6% al 13%. In realtà da parte delle banche c'è un eccesso di collaterale depositato presso la BCE rispetto alle richieste di liquidità. Quindi gli effetti concreti di un eventuale downgrade potrebbero anche essere ridotti. La stima degli analisti è che per 142 miliardi chiesti a prestito dalle banche italiane e dalla Banca Centrale Europea servirebbero altri 10 miliardi in più di collaterale in caso di rating B per l'Italia, ma le stesse stime di Banca d'Italia quantificano in un eccesso di collaterale attuale già al 40% da parte degli istituti italiani, che quindi hanno margine per evitare problemi. Il problema semmai è politico e vedersi retrocessi per un governo non è mai una buona notizia. E soprattutto dà munizioni a chi continua a pretendere in Europa politiche di austerità, con l'Italia ormai costretta da anni a importanti avanzi primari, mentre gli altri paesi possono tranquillamente spendere in deficit. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.